Focus Economia. Con Simone Spezia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri SMS. Di cosa parleremo oggi? Allora, ci sono molti temi, a dire il vero. Uno tra l'altro si sta sviluppando proprio in questi minuti con un fronte di tensione che riguarda l'Agenzia delle Entrate, che sta diventando un fronte di tensione politico molto forte. Che cosa succede? Succede, è una vicenda che in parte abbiamo raccontato, succede che ci sono una serie di dirigenti dell'Agenzia delle Entrate che sono stati nominati tali senza un concorso pubblico, per una serie di questioni burocratiche e legislative che al momento non vi sto a raccontare, ne parleremo più avanti nella seconda parte della trasmissione. È intervenuta la Corte Costituzionale, ha detto che queste nomine sono irregolari, questi sono decaduti dalla loro carica. L'Agenzia delle Entrate si è ritrovata di fatto senza un numero enorme di dirigenti, 700. Agenzia delle Entrate che è centrale per una serie di motivi, qualcuno sarà ovviamente soddisfatto che l'Agenzia delle Entrate sia paralizzata, ma ovviamente serve anche per il recupero dell'evasione fiscale. Come si diceva, questi 700 sono decaduti dalla loro carica di dirigente, con un crollo anche dello stipendio, gente che si è vista passare lo stipendio da 4.000 euro al mese a 1.700 euro al mese, ma non è tanto questo il punto quanto appunto la paralisi della stessa Agenzia delle Entrate. E la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, che ha iniziato a fare qualche intervista sui giornali dicendo insomma qua bisogna trovare una soluzione, perché per le condizioni nelle quali è al momento l'Agenzia delle Entrate è a rischio la lotta all'evasione. Un'intervista pubblicata questa mattina da un quotidiano al sottosegretario dell'economia Zanetti diceva, che è di Scelta Civica, anche il leader di Scelta Civica, diceva insomma se la Orlandi non ce la fa che si dimetta. Pochi istanti fa un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dice immutata stima nei confronti dell'Orlandi, e adesso Zanetti chiede un chiarimento politico al Presidente del Consiglio. Come vedete è un tema importante per una serie di motivi, innanzitutto per il tema della lotta all'evasione fiscale appunto, dall'altra parte perché rischia la paralisi una struttura importante per il Paese, piaccia o non piaccia l'Agenzia delle Entrate, si abbia il giudizio che si vuole sull'Agenzia delle Entrate e soprattutto come si è comportata negli anni precedenti e come ha gestito questi anni di crisi, ricordiamolo sempre comunque sulla base di direttive politiche e di applicazione delle norme, però per come ha gestito questi anni di crisi, insomma, diciamo con decisamente poca morbidezza, come spesso anche voi ascoltatori ci avete segnalato. E quindi ci sono degli elementi importanti al centro di tutto questo, ai quali si aggiunge una questione politica che sta emergendo all'interno dell'esecutivo, e di questo ci occuperemo nella seconda parte della trasmissione. Altri temi importanti di oggi, c'è l'assemblea di Assolombarda che si svolge oggi all'Expo di Milano. Tutto questo ad un paio di giorni dalla lettera pubblicata dal Sole 24 Ore, o meglio, ad un giorno dalla lettera pubblicata dal Sole 24 Ore del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha scritto questa lettera intitolata La speranza di Milano, capitale europea e motore dell'Italia, dedicato proprio a come la città ha accolto Expo e ha permesso che questo Expo funzionasse, e anche ovviamente al futuro delle aree espositive, al futuro di Milano e della stessa Italia. Considerate che oggi si è toccato il traguardo dei 20,6 milioni di biglietti staccati, siamo nella settimana che porta di fatto alla conclusione dell'Expo, e quindi insomma sono elementi importanti. Ha parlato il Ministro dell'Economia per Carlo Padoan, il Presidente di Confindustria Squinzi, e ascolteremo su questo qualche voce. Altri temi, la Polonia. Beh, insomma, qua stiamo parlando di una vittoria molto netta, e lo abbiamo raccontato anche in GR24, della destra polacca, un 38% che consente di fatto la maggioranza assoluta dei seggi ad una destra che è anti-euro e anti-immigrati. È importante per una serie di motivi, innanzitutto perché segnala ulteriormente una tendenza che abbiamo già verificato in Europa in questi mesi, dall'altra parte perché è importante dal punto di vista economico, perché noi tendiamo a considerarla un po' fuori, tendiamo a rapportarci solamente con i paesi cosiddetti core dell'Europa, i paesi centrali dell'Europa, perché poi sono anche quelli che adottano l'euro. E però tenete presente che la Polonia è la sesta economia di questo continente ed è un'economia che è cresciuta del 25% negli ultimi anni, mentre l'Europa, il resto dell'Europa, cresceva dello 0,7%. Per la precisione, tra il 2008 e il 2014 il PIL polacco è salito del 24%, quello europeo dello 0,7%. In apertura vi presenteremo invece i dati di una ricerca, visto che poi anche sul tema anti-immigrati la destra polacca ha vinto le elezioni, vi presenteremo una ricerca che in realtà è stata pubblicata qualche giorno fa, ma sulla quale ci interessa porre l'accento, e riguarda l'apporto economico degli immigrati in Italia. Ora, qua non si sta dicendo di aprire le porte a tutti, è chiaramente un fenomeno che va regolamentato e questo nessuno lo mette in dubbio. Si tenga però presente, al di là dei fatti di cronaca che vediamo, degli episodi di violenza che riguardano sia immigrati sia italiani, a dire il vero, però si tende a porre l'accento più sui crimini commessi dagli immigrati, si tenga presente che contribuiscono alla nostra economia in maniera netta e forte, tanto dal punto di vista puramente economico, di apporto di PIL, quanto dal punto di vista del pagamento delle nostre pensioni. Si consideri, tanto per fornire un dato di questa ricerca presentata dalla Fondazione Leone e Moressa, che i contributi previdenziali sono stati 10,3 miliardi, pagano, si può dire così, la pensione a 620 mila italiani. E si tenga anche presente questo come valutazione generale, che la Ragioneria Generale dello Stato, quando fa le sue stime sulla sostenibilità del sistema pensionistico, ci mette dentro sicuramente la crescita, che è l'elemento fondamentale, una crescita intorno al 2%, ma ci mette anche l'afflusso di immigrati in Italia. Quindi faremo un punto su questo, sull'apporto dal punto di vista puramente economico degli immigrati. Ovviamente parleremo anche di mercati, lo facciamo sempre, lo facciamo tutti i giorni. In calo oggi la giornata, mezzo punto percentuale per il FTSE MIB, meno 0,41 per il FTSE OSHARE, negativa a Parigi dello 0,62, Francoforte che guadagna lo 0,01%, anzi adesso in perfetto pareggio. Qua c'è il dato diffuso dall'IFO questa mattina sulla fiducia delle imprese, che è migliore delle attese degli analisti, che si attendevano un netto calo anche in seguito alla vicenda Volkswagen. Per quanto riguarda i singoli titoli, abbiamo in cima Telecom Italia un punto e mezzo percentuale, questa è una storia di borsa che tra poco racconteremo. Enel Green Power più 0,86, Iux Net-a-Porter più 0,73, la Popolare Milano che guadagna lo 0,7, in fondo all'istino ST Microelectronics che cede il 4,7, Mediobanca il 2,25, Eni l'1,6, Unipol l'1,6 e Mediaset l'1,38%. Andiamo sulle notizie in breve di oggi. Materie prime innanzitutto. Abbiamo ancora in calo il petrolio, il WTI, quello quotato a New York con consegna a dicembre, giù dell'1,23% a $44,05 al barile. Il Brent, il petrolio del Mare del Nord, quotato a Londra, giù di mezzo punto percentuale a $47,7 al barile. Per quanto riguarda l'oro, sale dello 0,4% a $1,168 l'oncia. La vicenda che farà molto discutere, continuerà a far discutere anche per i rischi di impatto sull'industria alimentare. Quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le carni lavorate come i Würstel sono cancerogene e vanno inserite nel gruppo 1 delle sostanze che causano il cancro a pericolosità più alta, come il fumo e il benzene. E in questo gruppo 1 c'è anche l'amianto. Würstel, ma anche salsicce, insomma, la carne rossa confezionata. Le carni lavorate in genere. Meno a rischio quelle rosse non lavorate, inserite fra le probabilmente cancerogene. E a questo sono dedicati i 100 secondi di Radio 24, oggi curati dal vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Salumi e carne lavorata, dai Würstel al bacon, sono alimenti cancerogeni? Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo sarebbero, tanto da essere stati inseriti nella lista dei prodotti ad alta pericolosità cancerogena. Una categoria, è bene ricordarlo, che già contiene non solo tabacco e amianto, ma oltre 450 tra alimenti e sostanze di vario genere che gli scienziati dell'OMS ritengono rischiosi per l'insorgenza di tumori. L'organizzazione sostiene che mangiare oltre 50 grammi di carne processata al giorno aumenta il rischio di cancro colorettale del 18%, e più carne si consuma più aumenta la possibilità che la malattia insorga. Fin qui si può solo prendere atto del monito degli scienziati, ma nel caso dei prodotti alimentari c'è anche tanta confusione. Una settimana la cioccolata fa bene, l'altra no. Un anno si accusa il formaggio, un altro il latte, un altro ancora il pesce per il suo contenuto di mercurio. Ma al di là dei singoli allarmi e dello scetticismo che spesso ancora li circonda, ciò che disorienta di queste ricerche è spesso la genericità del monito che si lancia ai consumatori. Dire che la carne processata alza il rischio di cancro è infatti del tutto inutile, se non a volte dannoso, se non si spiega poi a partire da quale livello di consumo Würstel, hamburger, salsicce e bacon diventano pericolosi. Come dire a un automobilista che imboccare una certa strada aumenta il rischio di multe, senza però dirgli il limite di velocità da rispettare. Comunque sia, le ricerche vanno prese sul serio, anche se nel caso dell'abuso di carni il buon senso ha fatto prima della scienza. Il dottor Mamma, da generazioni, ci dice che 3 volte alla settimana è più che abbastanza per una bistecca. Gli scienziati dell'OMS, invece, non hanno ancora trovato l'accordo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E così Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore, che insomma fa notare giustamente questo tema delle quantità, perché l'OMS ne parla, tira fuori questo comunicato, e però poi bisogna andare a cercare all'interno di un lungo rapporto quali sono le quantità effettivamente pericolose. Se considerate per esempio che nello stesso gruppo 1, come si diceva, dell'amianto, per il quale in tutta teoria basta una particella a far contrarre il cancro, quindi insomma, non penso che, non so, una fettina di Würstel in tutta una vita possa avere lo stesso effetto dell'amianto. Quindi, senza metter paura, bisognerebbe fare un po' più attenzione dal lato della comunicazione di queste cose. Sempre dall'estero abbiamo le notizie che arrivano dall'Argentina, perché si è votato in Polonia, come si diceva, e tra poco ne parleremo, ma si è votato anche in Argentina. Per la prima volta si andrà al ballottaggio per eleggere il presidente. Maurizio Macri è, a grande sorpresa che nessun sondaggio aveva previsto, ha bloccato la corsa alla massima carica dello Stato a Daniel Scioli, il candidato sostenuto da Cristina Fernández de Kirchner, è dato per favorito alla vigilia del voto. Sono molto vicini in realtà. Scioli ha ottenuto il 36,7% delle preferenze contro il 34,4% di Macri, che ora diventa il favorito al voto del prossimo 22 novembre. E dopo il risultato elettorale, banche argentine in netto rialzo a Wall Street. Abbiamo visto della Polonia, vi abbiamo detto dell'indice IFO che misura la fiducia delle imprese in Germania, in lieve calo a 180,2 punti dai 108,2 punti dai 108,5 di settembre, le attese erano per un ribasso a 107,8. E sarà interessante a un certo punto interpellare l'ex vicepresidente della Commissione europea e commissario all'industria Antonio Tajani. Perché? Perché secondo quello che pubblica il Financial Times, lo scandalo delle emissioni truccate dei motori diesel della Volkswagen era stato segnalato a Bruxelles già nel 2013. L'ex commissario all'ambiente, Janez Potocnik, aveva segnalato la discrepanza in termini di emissioni tra i risultati dei test e le prove su strada. Ma l'allarme è stato ignorato. Potocnik lo avrebbe scritto in una lettera del febbraio 2013 proprio ad Antonio Tajani. E se ci sia risposta, non lo sappiamo. L'assemblea di Assolombarda. Parla il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come si diceva dopo la lettera di ieri al Sole 24 Ore. Fare squadra è indispensabile per il futuro del Paese, non sempre è facile, ma è possibile, dice. Milano, in occasione di Expo, ha dimostrato di saper fare squadra. Interviene all'assemblea anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Anche in relazione dai dati pubblicati oggi, dati secondo i quali il governo prevede che le assunzioni a tempo indeterminato con gli sgravi contenuti nella legge di stabilità 2015 e quindi la decontribuzione, quella della quale spesso vi abbiamo raccontato, siano 1,2 milioni, circa 200.000 in più della stima contenuta nella vecchia manovra. Questo nella relazione tecnica al DDL di stabilità 2016. Si stima anche che le assunzioni con gli sgravi nel 2016 possano essere 1 milione. Proprio sulla proroga degli sgravi si è concentrato anche Padoan durante il suo intervento ad Assolombarda, all'assemblea di Assolombarda. Abbiamo prolungato i bonus assunzione al 2016, prevedendo un'agevolazione attraverso la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi. E qui un appello agli imprenditori. È una misura importante che si è rivelata efficace, ma a un certo punto scomparirà. Quindi vi prego, affrettatevi a utilizzarla. Assumete. Dirò, aggiunge Padoan, anche la politica economica del governo darà i suoi frutti quando vedremo un significativo e duraturo aumento dell'occupazione. Sentiamo. Potrò dire che la politica economica sta cominciando a dare frutti veramente importanti quando vedremo un significativo e duraturo aumento dell'occupazione. Questo è l'obiettivo del governo. L'attività del governo è basata su politiche strutturali e di bilancio in un orizzonte di medio periodo. Ci saranno meno tasse per imprese, maggior reddito per le famiglie, più agevolazioni per l'occupazione. Ci sarà e comincia a vedersi un ambiente economico che premia la competitività e ci sarà soprattutto un circolo virtuoso di fiducia, quello che se non c'è impedisce che risorse peraltro esistenti non vengano mobilitate. La fiducia è il singolo elemento più importante per un paese come il nostro. Sono convinto che la fiducia stia aumentando e ribadisco quello che ho detto all'inizio. L'Italia è un posto fantastico per lavorare e per investire. A sentire polemiche su 1 o 2 misure, aggiunge Padoan, isolandole del resto mi viene un po' di tristezza, perché così non ci si occupa del bene comune ma di una visione particolare. Interviene anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che dice: abbiamo apprezzato lo sforzo che il governo ha compiuto su alcune riforme importanti. Attendiamo di esprimere una valutazione complessiva sulla legge di stabilità anche a seguito delle scelte che verranno operate dalle commissioni parlamentari e dall'Aula nel merito, perché come al solito noi vi stiamo raccontando una manovra che è approdata adesso in Parlamento, che dopo una settimana di indiscrezioni che poi in parte sono rivelate false, in parte vere. E poi il Parlamento ci metterà mano, ma questo è un classico, lo sappiamo benissimo. Dice Quincy che il problema è la crescita, da aggredire e risolvere. E poi siamo sempre stati europeisti, ora pensiamo all'Italia. In questo momento faticoso bisogna credere all'Unione. Sentiamo Squizzi. Siamo stati europeisti, sempre e comunque, anche in momenti come questo in cui è faticoso credere all'Unione. Oggi però dobbiamo pensare in primo luogo all'Italia, al recupero della crescita, ad accelerare e qualificare la nostra competenza, produttività ed efficienza. Questo è oggi il vero problema da aggredire e risolvere. Davanti a noi c'è un mondo che sta muovendosi freneticamente, instabilmente e caoticamente, ma che cerca novità, qualità, sostenibilità e creatività. È come se dicesse che cerca Made in, che cerca Italia. Ecco, io penso che sta solo a noi rispondere. Noi dobbiamo rimboccarci le maniche e rispondere a queste esigenze che ci vengono dai mercati globali. Così il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che parla anche di Ilva. La politica non ha dato una bella manifestazione di sé in alcuni aspetti della vita pubblica e economica. Tra questi casi, secondo Squinzi, c'è anche il caso Ilva. Intanto, a proposito di legge di stabilità, promuove la manovra il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, almeno nel suo impianto, al microfono della nostra Anna Marino, a margine dell'assemblea. Sentiamo. C'è un mix di interventi che secondo me ha un certo equilibrio, perché è indirizzata al consumo, al lavoro a tempo indeterminato, quindi serve per facilitare tanti agli investimenti. Voi avete visto ammortamenti accelerati, piuttosto che si toglie la tassa degli imbullonati cosiddetti sugli investimenti in attivi fissi, quindi è una manovra multilato. Uno potrebbe chiedere che sia concentrata in un settore rispetto a un altro. Come ho detto, secondo me questo è un momento in cui si deve reggere la fiducia su tanti versanti, poi è il momento di scelte più profonde. Ma questo mi sembra il giusto momento per fare un'operazione del genere. C'è un atto di coraggio, perché nel momento che noi riduciamo le tasse e abbiamo un debito che non scende, è chiaro che c'è un atto di coraggio, ma vuol dire scommettere sulla crescita, e io credo che questa sia la scommessa giusta. Rocca dice: chiediamo con forza alla politica le condizioni abilitanti che consentano alle imprese di competere ad armi pari con i concorrenti. E a proposito di legge di stabilità, ci sono ancora una serie di dichiarazioni, vediamo se riusciamo a recuperare anche a far sentire adesso l'intervento di Dario Franceschini questa mattina a Mix 24 sul tema del contante, che sta diventando un fronte di tensione politica, quello dei 3.000 euro, dell'innalzamento a 3.000 euro del limite ai pagamenti in contante. Parla il presidente del Consiglio Renzi, che dice: per anni si sono fatti convegni per combattere l'evasione, ma non si è fatto un buon lavoro. In un anno e mezzo c'è stata una svolta data dall'innovazione con la dichiarazione precompilata, e anche in questo modo si fa la lotta all'evasione. Franceschini, intervistato da Giovanni Minoli a Mix 24 nel Faccia a Faccia, dice: il ministro dei beni culturali, su questo io ci ho provato, ma ha vinto Alfano. Soglia per il contante, le piacciono? No, non mi piacciono, l'ho detto in Consiglio dei Ministri, però penso che ci sia una regola che va rispettata. Uno dice la sua opinione, poi si adegua alle volontà della maggioranza. Siamo arrivati a un punto che quando uno non condivide una cosa se ne va. Insomma, mi pare un po' eccessivo. Io ho detto come la penso, perché ho detto storicamente, poi c'era un parere, ho anche riconosciuto Alfano, siccome abbiamo avuto molte volte una discussione su questo, e io sono sempre riuscito a fermare la cosa, che questa volta aveva vinto lui. Cioè ha vinto Alfano contro Franceschini stavolta. Beh, capita. Così dunque Franceschini sulla soglia del contante. I temi fiscali torneremo a parlare nella seconda parte della trasmissione, intanto ci prendiamo una pausa, c'è il meteo, ci ritroviamo tra un attimo per parlare dell'apporto economico degli immigrati in Italia. Qualcuno qua scrive, dice: sì, gli immigrati sì, non i clandestini, ovvio che stiamo parlando degli immigrati regolari, no? A tra poco. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms. Parliamo di immigrazione adesso. Voglio dire subito all'ascoltatore, che del quale comprendo anche la rabbia, che ci dice: sono disoccupato, bastardi, vieni a Prato a vedere se i cinesi, pagano le tasse oppure no. Stiamo parlando di qualcosa di diverso adesso, ci affrontiamo quella che è l'immigrazione regolare, le persone che regolarmente lavorano nel nostro paese, e non c'è motivo che non lo facciano, tra l'altro. Un discorso diverso è quello che abbiamo visto a Prato, e del quale ci siamo accorti tutti, perché fino a quel momento c'è stata una rimozione collettiva da parte di tutti, da parte dei media, ma anche da parte dei sindacati, di quello che succedeva nei capannoni e di quello che probabilmente succede in parte ancora nei capannoni. Però là siamo nell'ambito dell'illegalità, dopo quel rogo che uccise tante persone a Prato. Siamo nell'ambito dell'illegalità, qua parliamo di gente regolare. E qua così rispondiamo anche a chi dice: parlate degli immigrati, non dei clandestini. No, infatti, come dicevo prima, parliamo degli immigrati regolari, non dei clandestini. Un'ultima nota sulla vicenda dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un ascoltatore dice: l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha smentito, verificate le fonti. Guardi, io ho qua davanti a me il sito ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è il comunicato, non so, non c'è una smentita al momento. Dunque, l'economia degli immigrati. Giovedì scorso è stato presentato il rapporto annuale della Fondazione Leone Moressa proprio sull'economia dell'immigrazione, in collaborazione con la CGA di Mestre. Enrico Di Pasquale, ricercatore della Fondazione Leone Moressa, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, ci sono dati interessanti, al di là di quelli generici che poi fatichiamo anche un po' a percepire, no? Come il PIL dell'immigrazione, nel senso che nel 2014 la ricchezza prodotta ha raggiunto i 125 miliardi di euro, pari all'8,6% del prodotto interno lordo. Sono interessanti anche i dati sulla previdenza di Pasquale, no? Sì, esatto. Intanto volevo precisare sul discorso che faceva all'inizio, il fatto che appunto noi trattiamo gli immigrati regolari. Questo non esclude che ci siano aree di illegalità e di lavoro nero, ma come tra l'altro ci sono tra gli italiani, però è interessante notare come il volume delle tasse pagate regolarmente dagli stranieri arrivi a quasi 7 miliardi di euro solo per quanto riguarda l'IRPEF. Sì. A cui vanno aggiunti 10 miliardi di contributi previdenziali, che pur non essendo tasse vere e proprie vanno comunque nell'immediato a dare ossigeno alle casse statali. Sì. Quindi un volume di entrate di circa 16 miliardi e mezzo, che invece viene utilizzato solo in minima parte dagli immigrati, in quanto una popolazione più giovane, quindi con un peso minore sulla spesa pubblica, che come sappiamo è orientata prevalentemente sulle pensioni e sulla sanità. Certo. Quindi lo spieghiamo semplicemente per gli ascoltatori: in queste questioni le vicende demografiche contano moltissimo, perché molto semplicemente, come sapete, se siete più giovani avete meno bisogno di andare dal medico, avete meno bisogno di andare dal dottore, e quindi gran parte della spesa sanitaria in realtà viene utilizzata per la popolazione più anziana. Ed essendo gli immigrati che arrivano qua e che lavorano mediamente più giovani di noi, mediamente più giovani della popolazione autoctona, per così dire, evidentemente usufruiscono meno di questi servizi, oltre che non usufruire praticamente per niente del sistema pensionistico. Prego. Sì, esatto, quindi noi abbiamo, il dato è molto semplice, viene dall'Istat, e confrontando la popolazione con più di 75 anni, tra gli italiani è 1 su 10, tra gli stranieri 1 su 100, quindi questo appunto avvalora quello che è stato appena detto. In particolare noi abbiamo stimato la spesa pubblica destinata agli utenti immigrati, quindi appunto sanità, istruzione, giustizia, politiche abitative e quant'altro, si aggira intorno ai 12,5 miliardi, quindi con un saldo attivo di circa 4 miliardi. Questo è appunto il, diciamo, l'utile prodotto per le casse dello Stato dalla presenza immigrata, dalle tasse pagate dagli stranieri. Questo il quadro. Per sostenere il suo attuale sistema pensionistico, l'Europa, ha scritto l'economista Leonid Bershidsky in un rapporto pubblicato inizio settembre da Bloomberg, l'Europa avrà bisogno di 42 milioni di nuove persone attive entro il 2020 e di oltre 250 milioni entro il 2060. È ben difficile con il ritmo di invecchiamento della popolazione queste possano essere solamente... come vogliamo chiamarli, europei, appunto, autoctoni. Un'ultima domanda di Pasquale che le voglio fare e che riguarda una domanda che ci fanno molti ascoltatori, dicono: è vero che producono PIL, è vero che appunto generano quindi ricchezza all'interno del paese, è vero anche che tanta ne mandano fuori, insomma, cioè io non so se avete fatto anche un calcolo delle rimesse che gli immigrati fanno verso l'estero. Sì, però noi l'abbiamo vista da un altro punto di vista, nel senso che uno degli slogan che sentiamo più spesso è quello aiutiamoli a casa loro. In realtà bisogna dire che aiutarli a casa loro significa investire. E l'Italia spende per aiuti pubblici allo sviluppo circa 3 miliardi di euro, mentre le rimesse che gli immigrati mandano alle famiglie nei paesi d'origine sono circa 5 miliardi e 3, quindi il doppio. Per cui potremmo dire che i primi ad aiutarsi a casa loro sono proprio gli immigrati, per cui è vero che questi fondi sono mancati consumi in Italia, però è anche vero che sono risorse che vanno direttamente alle famiglie e quindi ai bisogni primari nei paesi d'origine, e quindi sono una forma di aiuto e di cooperazione molto forte e, ripeto, circa il doppio rispetto a quanto spende il nostro paese invece sotto forma di aiuti. Quindi su questo va chiarito, insomma, se vogliamo spingere gli aiuti allo sviluppo non possiamo lamentarci che lo facciano gli stranieri. La ringrazio, grazie a Enrico Di Pasquale, ricercatore della Fondazione Leone Moressa, per questi dati che ha fornito. È vero anche dall'altra parte quello che ci scrive un ascoltatore, dice: sì, è vero, la sanità, le pensioni, dice, però ci sono anche la scuola, gli asili, i bambini. È vero, però se guardate la composizione della nostra spesa pubblica avrete abbastanza chiaro che l'impatto tanto del sistema pensionistico, anzi soprattutto del sistema pensionistico, quanto del sistema sanitario è decisamente superiore. Ci fermiamo, c'è una pausa, sentiamo cosa succede sulle strade, poi, visto che abbiamo parlato di immigrati, parliamo di questo di questa vittoria della destra anti-immigrati in Polonia e dell'impatto che può avere, ovviamente, dal nostro peculiare punto di vista, un punto di vista economico. A tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Focus Economia. Adesso il problema sarà, qualcuno ci scrive al 349-238-6666, che gli immigrati, il problema è che fanno tanti figli, ma abbia pazienza, ma che vuol dire? Il problema sarà che gli italiani ne fanno pochi, io per conto mio ho dato che ne ho fatti 3, quindi mi pagheranno loro la pensione. Denaro autoctono. Parliamo di Polonia, va, dove appunto un partito che tra l'altro è fortemente anti-immigrati ha vinto nettamente le elezioni con un 38% che gli assicura la maggioranza dei seggi, anzi 39%. Il partito è Diritto e Giustizia dell'ex premier Jarosław Kaczyński. Il programma, tra l'altro, contrario all'ingresso nell'euro, bonus di 500 zloty al mese, 125 euro per ogni secondo bambino fino ai 18 anni, ritiro della riforma delle pensioni introdotta dai centristi, 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, invece dei 67 attuali, per i pensionati medicine gratuite, tasse più alte per le banche, aiuti alle piccole e medie imprese polacche, tassa sulle banche, transazioni finanziarie e una sulla conversione dei prestiti in franchi svizzeri. Il carbone deve rimanere la principale fonte di energia. Kaczynski ha parlato di rischio epidemie per gli immigrati. Adriana Cerretelli, del Sole 24 Ore, editorialista sui temi europei. Adriana, buonasera e bentornata. Buonasera. Qual è la tua valutazione? Ma la mia valutazione è che nella corsa all'involuzione europea c'è stata una sterzata molto negativa in Polonia, nel senso che proprio il ritorno dei Kaczynski non ci voleva. Cioè Kaczynski, i due Kaczynski, perché uno è morto nel famoso incidente aereo ed era il presidente, e, diciamo, Kaczynski sono stati un po' il simbolo degli anni più oscuri, degli anni appunto molto oscurantisti. Oggi ritornano ritorna uno dei due con delle politiche analoghe, che sono un po' delle politiche che remano contro le politiche europee. Ora sappiamo tutti che in questo momento l'Europa è lungi dall'essere perfetta e popolare, però se si pensa che questa svolta involutiva nei confronti dell'Europa avviene nel paese che più ha beneficiato dell'Europa, perché non ci dimentichiamo che la Polonia è il paese che è cresciuto più di tutti, quest'anno cresce il 4%, tassi che ci si tra l'altro Adriana, ti interrompo solo per fornire di nuovo agli ascoltatori un numero che abbiamo dato in apertura e che secondo me è piuttosto impressionante. Dal 2008 al 2014 la Polonia è cresciuta del 24% contro un più 0,7% dell'Europa. Questo per dare la dimensione di come è andata. Qualcuno, scusami Adriana, ci dice sono cresciuti perché non avevano l'euro. Ma questo può essere in parte vero, ma solo relativamente, perché in realtà loro hanno i conti in ordine, quindi non hanno fatto delle politiche, diciamo, che in qualche modo contraddicessero le politiche dell'euro, però certamente avevano la leva del cambio che noi non abbiamo, però ha fatto soprattutto politiche per attirare gli investitori esteri. La Polonia è un paese che ha ricevuto un sacco di capitali e grazie a questo è molto cresciuta, e poi è un paese che diciamo oggi è un po' come era la Spagna dell'allargamento. 10 anni dopo l'allargamento la Spagna aveva fatto un miracolo economico travolgente, lo stesso per la Polonia, che ha incassato 180 miliardi di fondi strutturali dall'Europa. Questa rivolta che c'è stata contro il governo in carica non è quella che si può spiegare come, non so, quello che è avvenuto in Grecia, no? Nel senso che l'Europa, certo, è diventata da mamma a mamma e la gente si è ribellata. In Polonia non c'era questo tipo di sentimento se non nel confronto della politica sull'immigrazione, su cui la Polonia non intendeva transigere all'inizio, come appunto farà Kaczynski, ma che poi alla fine ha ceduto. Perché? Perché il suo ex premier Donald Tusk è diventato presidente del Consiglio europeo e quindi, diciamo, ha cercato di condurre la Polonia su questa strada. Invece con Kaczynski intraprenderà una strada che è tipo quella di Orban, nel senso chiusura delle frontiere e quindi non si parla di solidarietà intraeuropea. Gioco che non è soltanto naturalmente di questi due paesi, è un po' la tentazione di tutti i paesi dell'est che non riescono, cioè chiama molto prendere la solidarietà europea ma restituirla in generale. Anche i baltici fanno fatica a capirlo, non parliamo dei cechi, degli slovacchi, cioè sono tutti paesi che contestano molto le politiche europee sull'apertura ai rifugiati, perché temono naturalmente la destabilizzazione delle loro società, temono di perdere il benessere duramente guadagnato dopo il lungo periodo comunista. Insomma, ci sono tante ragioni culturali che possono spiegare questa chiusura, però certamente in un'Europa c'è una legge del dare e dell'avere e non si può pensare che si prende e non si dà niente in cambio, anche perché poi, prima o poi, diciamo, il gioco non funziona. Allora, ti ringrazio, grazie Adriana Cerretelli dell'editorialista del Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo dopo GR24 per parlare tra l'altro di questa vicenda dell'Agenzia delle Entrate che sta creando dei problemi forti anche a livello politico. A tra poco. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Tutti i giorni alle 18.30. Solo su Radio 24. Questo non credo. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar, ce l'ha con te questo? Ma no, ce l'ha con no, te, ce Alessandro, l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24. C'è Attenti a noi due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a noi due. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia per questa seconda parte di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms. Molti ne stanno arrivando sul tema degli immigrati, sulla ricerca della Fondazione Moressa, della quale abbiamo parlato, che indica dei dati generali sul contributo che danno in termini fiscali, in termini di PIL e in termini previdenziali gli immigrati. Poi ci sono una serie di elementi che ci fate notare, per esempio gli asili nido, l'utilizzo della sanità pubblica. Detto ciò, vi ripeto quello che ho detto, ci sono i calcoli della Ragioneria Generale su questo. Il paese, in particolare il sistema previdenziale, senza l'apporto di un certo numero di immigrati all'anno non si regge, molto semplicemente. Poi che ci vogliono delle regole, su questo siamo d'accordo tutti quanti. Siamo alla borsa, poi tra un attimo verremo al tema dell'Agenzia delle Entrate, perché poi stanno uscendo nuovi dettagli su questa vicenda, e la vicenda dei dirigenti nominati senza concorso tramite una promozione interna che poi sono stati fatti decadere dalla Corte Costituzionale, adesso hanno presentato ricorso, vicenda che si sta intrecciando con questioni politiche piuttosto dure tra una componente della maggioranza che è Scelta Civica, il cui capo, che è anche il sottosegretario all'economia Zanetti, stamattina ha parlato di dimissioni della direttrice dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi. Aveva detto, insomma, se non ce la fa a reggere, a gestire questa situazione, se ne vada. Padoan ha fatto uscire un comunicato del Ministero dell'Economia nel quale parla di immutata stima nei confronti dell'Orlandi. Zanetti dice abbiamo bisogno di un chiarimento, ma nel frattempo stanno uscendo anche i dettagli della riorganizzazione della stessa Agenzia delle Entrate, un tema insieme politico e che poi riguarda tutti noi, insomma, le nostre, per chi ce l'ha, cartelle esattoriali. La borsa dunque, borsa che chiude la giornata piuttosto debole, meno 0,47% il FTSE MIB, meno 0,36% il FTSE All Share, Parigi giù di mezzo punto percentuale, Francoforte appena sopra la parità, Londra giù dello 0,42%, negativa anche l'America, anche se di poco, meno 0,09% il Dow Jones, meno 0,15% lo Standard & Poor's 500. Ciao Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. A cosa dobbiamo i cali di oggi? Ma diciamo che più che cali sono più che altro un consolidamento, un assestamento dei listini, visto che giovedì e venerdì sull'effetto Draghi. Il governatore della Banca Centrale Europea aveva promesso nuovi stimoli all'economia nel caso i dati di dicembre confermassero un rallentamento della crescita in Europa e un possibile avvento della deflazione. Insomma, c'erano stati un giovedì e un venerdì positivi per le borse dopo queste promesse e oggi qualche vendita, soprattutto sui titoli che erano più stati premiati nelle ultime sedute. Mi sembra che l'attenzione oggi la possiamo puntare su due titoli, l'ultimo e il primo sul listino principale. Partiamo dall'ultimo, ST Microelectronics, meno 4,7%. Sì, ST, ci sono tre motivi che hanno spinto ST al ribasso. Innanzitutto un andamento della tecnologia in borsa in Europa che è stato decisamente grigio oggi, quindi a livello aggregato qualche vendita sulla tecnologia. Poi c'è il tema che ST era arrivato ai massimi da due mesi, aveva guadagnato più del 15% dal 14 ottobre e quindi qualcuno ha deciso di realizzare i propri guadagni. E infine poi c'è l'attesa per i conti, la terza trimestrale che verrà diffusa il 29 ottobre e qui c'è il timore di alcuni operatori che si possano vedere i primi effetti del rallentamento cinese, che ricordiamo che la Cina, gli operatori cinesi sono tra i principali acquirenti di chip. Per quanto riguarda invece Telecom Italia, che è il primo, è quello che è andato meglio, più 1,66%, sì. Sì, ha brillato diciamo in una giornata abbastanza grigia per Piazza Affari. Telecom si giova soprattutto di questo progetto russo di alleanza tra Oi e Team Brasile in Brasile. Ricordiamo che Team Brasile è una controllata di Telecom. Il progetto lanciato dal magnate russo Mikhail Friedman sarebbe quello di una fusione tra le due società con un apporto di capitale appunto da parte di LetterOne, che è questa holding russa, di circa 4 miliardi di dollari. Sicuramente una prospettiva interessante, o almeno così l'hanno giudicata gli operatori di borsa, anche se non c'è ancora nulla di concreto. Ne prova anche il fatto che sulla borsa brasiliana sia Oi che Team Brasile stanno mostrando rialzi molto significativi. Oi fa più 11%, Team Brasile più 7%. Parlavi prima di trimestrali, tra l'altro a mercati chiusi è arrivata quella di Luxottica, che ha chiuso con un più 0,85%. Sì, Luxottica ha comunicato un utile netto dei 9 mesi a 704 milioni, in rialzo del 27%, ricavi più 18% a 6,8 miliardi. Il titolo aveva subito dei realizzi venerdì, oggi in attesa della diffusione dei conti è tornato a salire più 0,8%, così a occhio, guardando anche il valore, 65 euro, secondo me non siamo distanti dai massimi storici. Banche complessivamente negative, se si guarda Mediobanca meno 2,04, Banco Popolare meno 1,21, Popolare Emilia Romagna meno 0,98%, UBI Banca meno 0,64%, Unicredit meno 0,6%, fanno eccezione Monte dei Paschi che guadagna mezzo punto percentuale, la Pop Milano più 0,35%, in ordine piuttosto sparso, ma non ci sono motivi particolari, no? No, non particolari, hanno titoli comunque che erano andati bene sia giovedì che venerdì, poi anche le popolari vengono da un periodo di buon rialzo. Azimut invece continua nella sua striscia positiva che era iniziata giovedì, tra giovedì e venerdì e oggi è arrivata a guadagnare quasi il 10%. C'è stata anche diciamo nel corso del weekend la conferma da parte dei vertici degli obiettivi, dei target al 2015 e negli anni successivi e quindi diciamo una conferma molto apprezzata dal mercato, perché il titolo è adesso veramente a un passo da 22 euro. Grazie a Ceo Condina di Radio Corri Il Sole 24 Ore e ai colleghi Radio Corri Il Sole 24 Ore per il consueto aggiornamento sui mercati. Il resto, vediamo Saipem che guadagna l'1,16%, Enel Green Power lo 0,86%, Ux Net-a-Porté lo 0,6%, Finmeccanica più 0,41%, Ansaldo più 0,31%, in fondo al listino oltre ad ST e ai bancari abbiamo Unipol che cede l'1,7%, Eni l'1,5%, abbiamo visto prima quanto sia sceso oggi il prezzo del greggio, Moncler meno 1,36, A2A meno 1,2, Mediaset meno 1,2, così come il Banco Popolare. Adesso sentiamo cosa succede sulle strade, il traffico e poi parliamo di questa vicenda dell'Agenzia delle Entrate che sta creando anche parecchie tensioni politiche. A tra poco. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Estate sta letteralmente esplodendo questa vicenda dell'Agenzia delle Entrate, che a dire il vero, da questi microfoni, anche dalle colonne del Sole 24 Ore, vi abbiamo segnalato più di una volta che rischia di rappresentare un grosso problema. Finalmente arriva, come dire, anche su altre prime pagine. Qual è la storia? Per riassumerla molto brevemente, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali, illegittime, le nomine di circa 800 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate che sono arrivate senza concorso, creando un problema strutturale, perché di fatto l'Agenzia delle Entrate si è trovata a dover fare a meno di 800 figure dirigenziali, così da un giorno all'altro sostanzialmente. Senza contare le vicende personali di costoro che appunto erano stati nominati, hanno fatto il loro lavoro, avevano un inquadramento economico e professionale di quel tipo e sono ritrovati magari con uno stipendio decurtato del 50% e ritornati al ruolo precedente. Ma diciamo, questo è un effetto collaterale, per così dire, anche se quando si parla di singole persone è un po' difficile parlare di effetti collaterali. Quindi la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, si trova tra le mani questo problema e inizia a fare una serie di interviste e una lettera al Sole 24 Ore in luglio dicendo: attenzione, rischiamo la paralisi, non ce la facciamo in queste condizioni, il governo deve intervenire. Tutto esplode stamattina quando il sottosegretario dell'economia Enrico Zanetti dice: vabbè, se non ce la fa si rimetta, sostanzialmente, un po' forse lievemente più morbido, però là siamo. Dopodiché oggi pomeriggio arriva un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi presumibilmente a firma del ministro titolare, di Piercarlo Padoan, nel quale, parlando di evasione fiscale genericamente, affogato in un comunicato sulla lotta all'evasione fiscale, c'è scritto: immutata stima al direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi. E Zanetti chiede un chiarimento politico. Allora, questa è la conseguenza politica e ci arriviamo tra un attimo. Saluto Jean-Marie Delbo, del Sole 24 Ore. Jean-Marie, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie, a voi e agli ascoltatori. E grazie, so che ti abbiamo strappato ad una riunione nella quale tra l'altro si parlava anche di questi temi e quindi ti restituiremo a questa tra breve. Partirei dalla questione della paralisi, perché poi arriveremo al fronte politico che sicuramente rappresenta un problema, però quello che ci interessa in questo momento è che l'Agenzia delle Entrate sostanzialmente funzioni e funzioni bene, non in parte come ha funzionato anche in questi anni di crisi, però che funzioni bene, diciamo così. In che condizioni è adesso l'Agenzia? È in grado di lavorare, di funzionare efficacemente oppure no? L'Agenzia è in grado di lavorare efficacemente, potremmo dire, ma a termine. Cioè le risorse interne consentono ancora per un po' di tempo di reggere l'impatto di questo che è stato un vero cataclisma. Resta il problema che una soluzione va trovata, perché anche la capacità di resistenza alla tempesta rischia di venire meno. Più volte è stato detto che quest'anno gli obiettivi non sono in discussione, riusciamo a reggere l'impatto. Non sappiamo cosa succederà l'anno prossimo e credo che il nodo centrale sia questo, cioè che esito può avere tutta questa situazione, proprio perché anche i contribuenti hanno bisogno di un interlocutore credibile, un interlocutore che sia in grado di rispondere alle loro istanze nei tempi previsti, che sia in grado di fare degli accordi che poi vengono confermati, che sia in grado di dare certezza. Certo, perché tra l'altro tu dicevi un interlocutore credibile e poco fa in apertura di trasmissione riassumevamo ancora una volta la vicenda. Intorno alle 17 un ascoltatore ci ha scritto: pensate che credibilità ha uno che ti viene a chiedere le tasse o magari a contestare qualche infrazione e che ha 800 dirigenti illegittimi, insomma, quindi va, come dire, va un pochino messa a posto questa situazione. Sicuramente va messa a posto, perché c'è da un lato il problema dell'evasione, che è molto importante, su cui anche in modo improprio si concentra l'attenzione in questi giorni, ma poi c'è il problema di chi l'evasione non la vuole fare, cioè di chi per esempio deve chiudere un concordato, deve chiudere un interpello, cioè un accordo preventivo per evitare di avere problemi successivamente. E non sa chi sia il suo interlocutore o rischia di non saperlo in sostanza? Diciamo che ha avuto degli interlocutori finora, interlocutori che magari continuano a esserlo, ma attorno ai quali ci può essere un problema di certezza giuridica e quindi oppure per i quali ci può essere la tentazione di andare altrove, perché vivere nell'incertezza anche sul proprio ruolo porta poi a dire ma c'è un mercato per noi. E certo, e molti, lo abbiamo anche raccontato, stanno già iniziando a farlo, no? Si stanno iniziando a dirigere su appunto studi, consulenza fiscale piuttosto che occupazioni esterne di questo tipo. Ti vorrei dire questo, Jean-Marie, si pone un problema degli atti firmati da questi 800 dirigenti a questo punto illegittimi? Allora, il problema è stato affrontato dalle commissioni tributarie provinciali e regionali e anche dalla Cassazione e per quel che riguarda il passato si sta quasi risolvendo, nel senso che la Cassazione ha dato un paio di interpretazioni, una più sfumata, una invece più diretta, che di fatto salvano molti degli atti del passato. Per il futuro i problemi non ci dovrebbero essere perché i poteri di firma sono stati trasferiti dopo la sentenza della Corte Costituzionale ai dirigenti che, diciamo, formalmente avevano i poteri di firma legittimi. Certamente però c'è un problema di funzionalità generale. Certamente. Quindi ci sembra di aver capito che tutto sommato quella pioggia di ricorsi che si era paventata possa essere stata frenata, come dire, dalle sentenze della Cassazione, dalle decisioni della Cassazione. La pioggia dei ricorsi da parte dei contribuenti probabilmente si è ridotta, anche se la speranza poi di fare un ricorso ed essere fortunati c'è sempre. Adesso si apre il fronte dei ricorsi dei dipendenti, il che aprirà un'altra questione. Di questi 400 mi pare hanno fatto ricorso, tra questi che sono stati degradati, per così dire. Sono 400, sono più della metà, quindi un numero impressionante, e poi se ne stanno aggiungendo degli altri, perché questi sono i primi che sono venuti allo scoperto. È come se in un'azienda 400 dei quadri decidessero di fare ricorso contro il datore di lavoro, insomma. Ti porterei, Jean-Marie, a questo punto al fronte politico per capire un po' meglio che partita si sta giocando a tutti gli effetti all'interno del Ministero dell'Economia su questi temi ed evidentemente a questo punto anche sulla figura di Rossella Orlandi. Che cosa sta succedendo? Tu sei riuscito a farti un'idea? Allora, per quel che riguarda la parte visibile, direi che oggi c'è stato un allineamento abbastanza ampio, no? Il ministro Padoan ha fatto un comunicato, Renzi ha fatto una dichiarazione dal Sud America in cui tutto sommato dà atto del rinnovamento. Sembrerebbe quindi che la partita sia chiusa, però si apre quella politica con Scelta Civica che a questo punto si è esposta molto, che ha bisogno di visibilità, che ha un leader che poi è in prima linea su questi temi e ne fa una leva per apparire all'esterno, con una rilevanza che diciamo si cerca in questo modo. A breve quindi la copertura c'è, bisogna vedere se poi nel medio-lungo periodo la situazione verrà a cambiare oppure no. Questo per la parte visibile, diciamo così. Per la parte visibile. Questo complessivamente per la parte visibile. Tanti hanno detto Renzi non ama più la Orlandi, nel senso metaforico, sì. E però di questo non c'è traccia, no? Al momento non c'è traccia. E anzi, il comunicato del Ministero dell'Economia di oggi sembra dimostrare esattamente che la stima appunto è immutata. Poi bisogna vedere, insomma, magari queste sono anche, come si dice, in questo caso dichiarazioni di rito. Nel frattempo, e qua andiamo a chiudere, Jean-Marie, stanno uscendo delle agenzie che riguardano la riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate, che tiene dentro la revisione della pianta organica sulla base della revisione della spesa. E qua c'è un punto interessante perché le agenzie dicono nella nuova pianta organica si prevedono 995 dirigenti contro gli attuali 1095. Io non ho capito a questo punto quanti dirigenti abbia e in quale situazione sia l'Agenzia delle Entrate. Allora qui l'operazione di oggi ha due logiche, diciamo. Almeno sembra di capire. Da un lato l'agenzia, come tutti, deve fare la spending review e quindi coglie l'occasione per arrivare a questo risultato. È chiaro che, avendo un'emergenza da gestire, tutto sommato riorganizzare in modo da poter minimizzare l'impatto della sentenza della Corte Costituzionale può servire. E questo credo sia anche un altro intento. E qua infatti abbiamo una nuova pianta organica, si prevedono 995 dirigenti contro gli attuali 1095 e quindi 100 in meno, mentre aumentano le posizioni organizzative speciali, le figure intermedie tra il dirigente e il funzionario. E ancora, maglie sempre più strette per combattere le frodi, focus sui grandi evasori, dialogo e assistenza ai contribuenti prima, durante e dopo la dichiarazione dei redditi per favorire l'emersione spontanea. Questi sono i pilastri e speriamo soprattutto nel dialogo e soprattutto che questa situazione si risolva abbastanza in fretta, perché insomma, per quanto vi sia stata antipatica negli anni di crisi, evidentemente l'Agenzia delle Entrate è strategica per questo paese. Grazie a Jean-Marie Delbo del Sole 24 Ore, Barbara Bianchi, Mauro Del Corno in redazione, in assistenza anche Benjamin De Zulian, Filippo Aureggi in regia, a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia una buona serata, ci sentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24, la passione si sente.